Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Capitolo secondo. Diario di Jonathan Harker. Continuazione. 5 maggio. Dovevo essermi assopito perché, se fossi stato completamente sveglio, mi sarei accorto che stavamo avvicinandoci a un posto così straordinario. Nella penombra, la corte sembrava considerevole di dimensioni, ma forse appariva più grande del reale a causa dei numerosi anditi bui che la circondavano, passando sotto grandi archi a tutto sesto. Non ho ancora avuto modo di vederla di giorno. Quando il calesse si è fermato, il guidatore è balzato a terra e mi ha teso la mano per aiutarmi a smontare. Anche questa volta non ho potuto fare a meno di notare la sua forza prodigiosa. La sua mano era davvero una morsa d'acciaio e avrebbe potuto stritolare la mia se avesse voluto. Poi ha preso i miei bagagli e li ha posati in terra accanto a me, che stavo davanti a una grande porta antica, cosparsa di grosse borchie di ferro e inserita in un portale aggettante di pietra massiccia. Perfino a quella tenue luce potevo vedere che la pietra era tutta scolpita, ma i rilievi erano logorati dall'età e dalle intemperie. Mentre io ero lì, in piedi, il guidatore è risalito a cassetta e ha scosso le redini. I cavalli sono partiti e scomparsi con il calesse in una delle nere aperture. Io sono rimasto lì in silenzio, non sapendo che cosa fare. Nessuna traccia di campanello né di battente, ed era improbabile che la mia voce riuscisse a penetrare attraverso quelle mura scostanti e le nere aperture delle finestre. Mentre aspettavo, per un tempo che mi è parso interminabile, mi sentivo assalire da dubbi e paure. In che razza di posto ero capitato? E in mezzo a che tipo di gente? In quale sinistra avventura ero andato a imbarcarmi? Si trattava di un episodio qualsiasi nella vita di un impiegato di uno studio legale mandato a spiegare a uno straniero le modalità dell'acquisto di una proprietà a Londra? Impiegato di uno studio legale. Questa definizione non piacerebbe a Mina. Procuratore legale. Perché proprio prima di lasciare Londra ho saputo che il mio esame era andato bene, quindi ora sono un vero procuratore legale. Mi sono messo a fregarmi gli occhi e a darmi dei pizzicotti per vedere se ero sveglio. Tutto mi sembrava un orribile incubo e mi aspettavo di svegliarmi improvvisamente e di ritrovarmi a casa, con l'alba che si insinuava tra le finestre come mi era capitato tante volte alla mattina, dopo una giornata di lavoro eccessivo. Ma la mia carne ha reagito alla prova dei pizzicotti e i miei occhi non si potevano ingannare. Ero davvero sveglio e mi trovavo nei Carpazi. Non potevo fare altro che pazientare e attendere il mattino. Ero appena arrivato a questa conclusione quando ho udito un passo pesante avvicinarsi dietro il portone e tra le fessure ho visto filtrare una luce. Poi un rumore di catene e lo strepito di pesanti catenacci tirati. È stata girata una chiave con un acuto cigolio che denunciava un lungo disuso. Poi la grande porta si è spalancata. Nell'interno c'era un vecchio, alto, accuratamente sbarbato ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi, senza una nota di colore in tutta la persona. Teneva in mano un'antica lampada d'argento la cui fiamma ardeva senza un tubo né un globo di sorta e proiettava lunghe, tremule ombre mentre oscillava nella corrente della porta aperta. Con la destra, il vecchio mi ha invitato cortesemente a entrare, dicendo in ottimo inglese ma con una strana intonazione: «Benvenuto nella mia casa. Entrate liberamente e di vostra spontanea volontà». Senza fare l'atto di venirmi incontro, è rimasto lì, immobile come una statua, quasi che il suo gesto di accoglienza l'avesse tramutato in pietra. Quando ho varcato la soglia, tuttavia, si è subito mosso, mi ha teso la mano e ha stretto la mia con una forza che mi ha fatto sussultare, un effetto rafforzato dal freddo gelido di quella mano. Sembrava più la mano di un morto che quella di un vivente. Poi ha ripetuto: «Benvenuto nella mia casa. Entrate liberamente. Andate poi sano e salvo, lasciando un po' della felicità che portate». La forza della sua stretta di mano era così simile a quella che avevo sentito nel guidatore che per un attimo ho avuto il dubbio di parlare con la stessa persona. Volendomene accertare, ho chiesto: «Il conte Dracula?» Il vecchio si è inchinato cortesemente e ha risposto: «Sono Dracula e le do il benvenuto, signor Harker, nella mia dimora. Entrate, l'aria della notte è fredda e certo voi avrete bisogno di mangiare e di riposarvi». Così parlando ha posato il lume su uno scaffale a muro, è uscito a prendere il mio bagaglio e l'ha portato dentro prima che io riuscissi a impedirglielo. Alle mie proteste l'uomo ha replicato: «No, signore, voi siete mio ospite. È tardi e la mia servitù non è disponibile. Lasciate che io stesso mi prenda cura di voi». Ha insistito per portare le mie valigie nell'atrio, poi su per un ampio scalone a spirale e lungo un altro vasto atrio su cui pavimento di pietra i nostri passi risonavano pesantemente. Infine il conte ha aperto una pesante porta e io mi sono sentito rallegrare alla vista di una stanza ben illuminata, nella quale una tavola era apparecchiata per la cena e un gran fuoco di ceppi ardeva e crepitava nell'enorme camino. Il conte Dracula ha posato le mie valigie, ha chiuso la porta e, attraversata la stanza, ha aperto un'altra porta che conduceva in una cameretta ottagonale illuminata da un'unica lampada e apparentemente priva di finestre. Dopo aver attraversato anche questa, ha aperto una terza porta e mi ha fatto cenno di entrare. Una vista piacevole, una grande camera da letto ben illuminata e scaldata da un fuoco di legna che mandava un suono vuoto su per l'ampio camino. Il conte ha portato dentro il mio bagaglio e si è ritirato dicendomi, prima di chiudere l'uscio: «Dopo il vostro lungo viaggio avrete bisogno di rinfrescarvi e di mettervi in ordine. Sono certo che troverete tutto quello che vi può occorrere. Quando sarete pronto, venite nell'altra stanza, dove la vostra cena sarà preparata». La luce, il calore e la cortese accoglienza del conte sembravano avere dissipato tutti i miei dubbi e timori. Così, tornando al mio stato normale, mi sono reso conto di avere una fame terribile. Quindi, dopo una frettolosa toilette, sono ritornato nell'altra stanza. La mia cena era già servita. Il mio ospite, che stava in piedi accanto al fuoco, appoggiandosi al camino di pietra, mi ha indicato la tavola con un cortese cenno della mano e ha detto: «Accomodatevi, vi prego, e mangiate a vostro piacere. Sono certo che mi scuserete se non vi faccio compagnia. Io ho pranzato e non ceno mai. Io gli ho dato la lettera sigillata che il signor Hawkins mi aveva affidato. Il conte l'ha aperta e l'ha letta attentamente. Poi, con un amabile sorriso, me l'ha restituita perché io la leggessi a mia volta. Un passo di essa, almeno, mi ha procurato un fremito di gioia. Mi rincresce moltissimo che un attacco di gotta, una malattia di cui soffro cronicamente, mi impedisca qualsiasi viaggio per un certo tempo. Ma sono lieto di poter mandare un valido sostituto, una persona in cui ripongo la massima fiducia. È un giovane pieno di energia e di talento, capace di grandissima fedeltà. Discreto e riservato, ha raggiunto la maggiore età lavorando per me. Durante il suo soggiorno sarà a vostra completa disposizione ed eseguirà ogni vostra istruzione. Ebbene, ha detto infine il conte, parlatemi di Londra e della casa che mi avete procurato. Scusandomi per la mia negligenza, sono andato in camera a prendere i documenti nella mia borsa. Mentre li mettevo in ordine, ho sentito venire dalla stanza vicina un rumore di piatti e di posate. E quando vi sono passato, ho visto che la tavola era stata preparata e la lampada accesa, perché ormai faceva buio. Anche nello studio o biblioteca i lumi erano accesi e il conte era disteso sul divano, intento a leggere fra tutti i libri che c'erano, proprio una guida Bradshaw in inglese. Quando sono entrato ho tolto i libri e le carte dalla tavola e insieme ci siamo messi a esaminare piani, atti e cifre di ogni specie. Egli si interessava di ogni cosa e mi ha fatto una quantità di domande sul sito e i suoi dintorni. Evidentemente aveva studiato in precedenza tutto quanto era riuscito a procurarsi sulla zona e sulle immediate vicinanze, perché infine se ne aveva molto più di me. Quando gliel'ho fatto osservare ha detto: «Bene, amico mio, non è necessario che sia così. Quando sarò là mi troverò solo e il mio amico Hark Jonathan, no». Scusatemi, mi sono lasciato trascinare dall'abitudine del mio paese, quella di anteporre il cognome al nome. Il mio amico, Jonathan Harker, non sarà al mio fianco per correggermi e aiutarmi. Sarà a Exeter, a chilometri di distanza, probabilmente intento a consultare documenti legali insieme con l'altro mio amico, Peter Hawkins. E dunque? Abbiamo esaminato a lungo l'atto di acquisto della proprietà di Parfleet. Gli ho esposto i fatti, gli ho fatto firmare i documenti necessari e ho scritto una lettera indirizzata al signor Hawkins per accompagnare i documenti stessi. Allora il conte ha voluto sapere come avessi fatto a trovare un posto così adatto a lui. Gli ho letto gli appunti che avevo preso a suo tempo e che trascrivo qui. A Parfleet, in una strada secondaria, ho trovato per caso un posto che sembrava rispondere ai requisiti richiesti e presentava un logoro cartello su cui c'era scritto che era in vendita. La proprietà è circondata da un alto muro antico costruito in grosse pietre che da molti anni non viene riparato. I cancelli chiusi sono di pesante vecchia quercia e ferro corroso dalla ruggine. La proprietà si chiama Carfax, senza dubbio una corruzione dell'antico Caterfas, perché la casa ha quattro lati corrispondenti ai punti cardinali. La proprietà consiste in una ventina di acri interamente circondati dal muro soddetto. Vi sono molti alberi, che in certi punti rendono il luogo tetro. È un profondo, scuro stagno o laghetto, evidentemente alimentato da una qualche sorgente, perché l'acqua è limpida e defluisce in ruscelli non piccoli. La costruzione, vastissima e molto antica, direi che risale al Medioevo, perché in parte è fatta di pietre di enorme spessore e ha poche finestre molto alte e protette da grosse inferriate. Sembrerebbe il residuo di un torrione. Accanto c'è una cappella o chiesetta nella quale non sono potuto entrare, non avendo la chiave della porta che vi accede direttamente dalla casa, ma l'ho fotografata da varie angolazioni con la mia Kodak. La casa è un'aggiunta posteriore, molto disordinata, e posso soltanto supporre che sia molto grande, a giudicare dalla vastità del terreno che ricopre. Nelle vicinanze ci sono pochi edifici, uno dei quali, molto grande, è stato recentemente trasformato in ospedale psichiatrico. Questo non è visibile, tuttavia, dalla proprietà. Quando ho terminato di leggere, il conte ha detto: «Sono felice che sia grande e vecchia. Io stesso appartengo a una antica famiglia e non potrei vivere in una casa moderna. Una casa non può essere resa abitabile in un giorno e in fondo. Ne occorrono così pochi per fare un secolo. E mi fa piacere che vi sia anche un'antica cappella. A noi nobili della Transilvania non è gradita l'idea che le nostre ossa possano giacere tra quelle di morti qualsiasi. Non cerco né allegria né letizia, e neppure la luminosa voluttà di un sole forte e delle acque scintillanti che piacciono ai giovani e ai temperamenti allegri. Io non sono più giovane, e il mio cuore, dopo lunghi, logoranti anni di lutto per i morti, non è incline alla gaiezza. Inoltre, le mura del mio castello sono diroccate. Molte sono le ombre e il vento soffia gelido tra merlature e finestre rotte. Amo l'oscurità e l'ombra e desidero rimanere solo con i miei pensieri quando è possibile». In un certo modo le sue parole non sembravano accordarsi con il suo aspetto. O forse era il suo tipo di faccia a fare apparire il suo sorriso maligno e saturnino. Poi con una scusa si è allontanato, pregandomi di mettere in ordine le mie carte. È stato via per un po', e io mi sono messo a guardare qualche libro. Uno era un atlante, che si è subito aperto sulla mappa dell'Inghilterra, una dimostrazione del fatto che quella pagina era stata molto consultata. Nel guardarla ho notato che certi punti erano stati segnati con dei cerchietti. Uno nei sobborghi di Londra, a oriente, dove era situata la sua nuova proprietà, e gli altri due marcavano Exeter e Whitby, sulla costa dello Yorkshire. Il conte è ritornato quasi un'ora dopo. «Ah!» ha esclamato. «Ancora sui libri? Bene, ma non dovete lavorare sempre. Venite, mi dicono che la cena è pronta». Mi ha preso per il braccio e siamo andati nella stanza accanto, dove ho trovato un pasto eccellente preparato sulla tavola. Il conte si è di nuovo scusato, dicendo di avere pranzato fuori, ma si è seduto come la notte prima, e mentre io mangiavo abbiamo chiacchierato. Terminata la cena, io ho fumato, proprio come nella sera precedente, e il conte si è trattenuto con me, conversando e rivolgendomi domande sugli argomenti più disparati, per ore e ore. Pur rendendomi conto che si stava facendo molto tardi, non ho detto niente, perché mi sentivo in dovere di assecondare in ogni maniera i suoi desideri. Non avevo sonno perché il lungo riposo del giorno prima mi aveva ristorato, ma non potevo reprimere quella sensazione di freddo che si sente all'avvicinarsi dell'alba e somiglia in un certo modo al volgere della marea. A quanto si dice, le persone prossime alla fine generalmente muoiono all'alba, o al cambiamento di marea, e chiunque abbia sperimentato, essendo stanco e costretto a stare al suo posto, questo mutamento dell'atmosfera, non stenterà a crederlo. D'un tratto abbiamo sentito il canto di un gallo levarsi con una straordinaria acutezza nell'aria limpida del mattino, e il conte Dracula, balzando in piedi, ha detto: «Perbacco, fa di nuovo giorno. Come sono indiscreto nel tenervi alzato così a lungo. Dovete rendere la vostra conversazione sull'Inghilterra, il mio nuovo e amato paese, meno interessante, in modo da non farmi dimenticare che il tempo vola». E con un garbato inchino si è congedato. Sono andato a letto, ma ho dormito soltanto per poche ore, e sentendo di non avere più sonno mi sono vestito. Avevo appeso alla finestra il mio specchietto da barba e stavo cominciando a radermi. D'un tratto ho sentito una mano sulla mia spalla e la voce del conte che diceva: «Buongiorno». Stupefatto di non averlo visto, perché nello specchietto si rifletteva l'intera stanza alle mie spalle, ho avuto un sussulto. Nel sobbalzare mi sono fatto un taglietto, ma lì per lì non me ne sono accorto. Dopo aver risposto al saluto del conte, mi sono girato di nuovo verso lo specchio per capire come mi fossi potuto sbagliare, ma questa volta non c'era possibilità di errore. L'uomo era vicino a me e io lo vedevo sopra la mia spalla, ma lo specchio non lo rifletteva. Dietro di me l'intera stanza era riverberata, ma non c'era traccia di un uomo, me escluso. Questo era sbalorditivo e, sommandosi alle tante altre cose bizzarre, veniva ad accrescere il vago senso di disagio che provo sempre quando il conte mi sta vicino. Ma in quel momento ho notato che dal taglietto usciva un po' di sangue e mi colava sul mento. Mi sono voltato a metà per cercare un cerotto, quando il conte ha visto la mia faccia. Nei suoi occhi si è accesa una specie di furore demoniaco ed un tratto ha tentato di afferrarmi alla gola, mentre mi ritraevo. La sua mano ha sfiorato il rosario a cui ha appeso il crocifisso. Il mutamento è stato istantaneo. La sua furia si è placata così in fretta da farmi dubitare che ci fosse mai stata. «Fate attenzione», ha detto. «Fate bene attenzione a non tagliarvi. In questo paese è più pericoloso di quanto non crediate». Poi, prendendo in mano lo specchio, ha aggiunto: «È questo il dannato oggetto che ha provocato il guaio. Un ripugnante gingillo della vanità umana. Via!» E aprendo la pesante finestra con un solo strattone della sua mano formidabile, ha gettato fuori lo specchietto, che si è spaccato in mille pezzi sui lastroni del cortile sottostante. Poi si è ritirato senza dire una parola. Un vero fastidio, perché io non so come farò a radermi, se non usando la cassa del mio orologio o il fondo della vaschetta per la barba, che fortunatamente è di metallo. Dopo colazione sono andato a esplorare un poco il castello. Passando dallo scalone ho trovato una stanza che guardava verso sud. Un panorama stupendo, e dal punto in cui ero lo potevo vedere benissimo. Il castello sorge proprio sull'orlo di un tremendo precipizio. Un sasso gettato dalla finestra cadrebbe per mille piedi prima di toccar terra. Fin dove si spinge lo sguardo non c'è che un mare di verdi cime di alberi, interrotto di tanto in tanto da profonde fenditure in cui si aprono abissi. Qua e là si vedono fili d'argento, i fiumi che serpeggiano in gole incassate tra le foreste. Ma non sono nello stato d'animo adatto a descrivere la bellezza, perché dopo aver visto il panorama ho proseguito la mia esplorazione. Porte, porte, porte dovunque, e tutte chiuse e sbarrate nelle mura del castello. E se si escludono le finestre, non esistono vie di uscita praticabili. Il castello è una vera e propria prigione. E io ne sono il prigioniero.